Allora, eccoci qua, siamo al telefono con Davide dei Vallanzasca che suoneranno questo sabato 11 maggio al Mercato Sonato. Intanto ciao e grazie mille della disponibilità. Ciao, ciao, grazie a voi per l'interesse e la telefonata. 28 anni di carriera, che sono tanti, 11 Uschi, sì. album all'attivo, beh, 91 data di inizio Sì, più o beh, non ci meno, avevo mai pensato, in effetti, no, no, comunque lo no? so, è vero, no? Un sacco di anni, tantissimo, è vero, è vero, è vero. Un Avete sacco già di 11 album. album all'attivo, Sì. ma nonostante ciò non vi siete adagiati sugli allori e sulle canzoni, diciamo, un po' più famose. Continuate a produrre, continuate a Sì, lavorare. è vero, è vero, E è infatti sta vero. arrivando qualcosa di nuovo. Sta arrivando VZK, che è proprio il nostro nuovo lavoro. Sono 6 tracce. Per la prima volta come Vallanzasca abbiamo fatto un EP dopo 11 dischi da 13, 14, 15 canzoni. Abbiamo fatto qualcosa di diverso e non vediamo l'ora veramente di farvelo sentire perché sono 6 pezzi molto diversi tra di loro, ma comunque con un vestito lo stesso anche un po' comune, prodotto da noi e mixato da Ciro Prince Vibe, che è un ottimo miscelatore di suoni del mondo reggae, canzoni sia reggae ma che anche ska e balcani, c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto. Come mai la scelta di un EP invece che un disco Ma più due lungo? cose, sì, allora, sono due motivi. Uno è economico, cioè nel senso che fare un disco, se devi cominciare a lavorare 14 canzoni tra studio di registrazioni, tempi di missaggio, insomma, viene viene un'operazione economicamente un po' dispendiosa, ma allo stesso tempo per andare, cioè perché tante volte appunto, facendo album da 14-15 canzoni vengono molto sacrificate tante tracce che sono comunque dal punto di vista della band trattate con lo stesso amore uno con l'altro, insomma, no? E invece con 6 canzoni si ha la possibilità un attimo di concentrarsi un po' di più su poche canzoni, di investire tempo, creatività e soldi a questo punto anche solo in alcune in tracce che comunque essendo 6 possono già raccontare qualcosa di noi, non è che è solo una canzone, un singolo, una roba estrapolata, è comunque un capitolo vero e proprio dei Vallanzasca. Siete una tra le band simbolo dello ska reggae in Italia, un genere che Sì. peraltro negli ultimi anni sta un po', non dico sparendo, ma se ne sente sempre meno. Gran calo, gran calo dello ska, cioè, lo puoi dire a voce alta. Però, sì, no, dimmi, dimmi, No, finisci volevo pure, poi chiederti la del parola. nuovo panorama musicale, insomma, quello che c'è di nuovo poi in questi ultimi anni. C'è qualcosa che vi interessa, vi piace musicalmente, da cui farvi influenzare, e qualcuno che secondo voi potrebbe essere stato influenzato dai Vallanzasca? Allora, ci sono sicuramente la musica che stiamo ascoltando adesso è un po' di vari generi. Ci siamo dovuti, non dovuti, nel senso, ci siamo messi anche ad ascoltare un po' di trap, ma non nel senso di notte così ascoltati ed esaltati, ma proprio a studiare un attimo questo fenomeno. Perché abbiamo voluto fare un pezzo anche che parla della trap, quindi volevamo utilizzare al meglio alcuni loro linguaggi musicali, sonori e anche di testo. E poi, quindi, un pezzo proprio si chiama Tutti a Gà, cioè nel senso che è una roba così, sono una rima tronca, ecco, poi dopo sarà meglio spiegato. Quindi, in questo senso, mi sento di dire che questo è un po' un ascolto che ci siamo fatti, ma anche è stato imposto, perché anche se non lo cerchi arriva da tutte le parti, come suono quello della trap. E poi comunque noi rimaniamo un gruppo ska naturalmente, però molto favorevoli come dire, alle contaminazioni. Mentre gruppi che sono venuti, che hanno preso da noi, ma non lo so dire la verità, sicuramente qualcosa sì, qualcosa sì. Mi ricordo che ho letto una volta un'intervista, non so se sia un bene o un male, di Fedez che diceva che si era formato ascoltando i Pancras e i Vallanzasca. Adesso poi non so se sia un bene o un male, Poi però ha sbagliato comunque strada, poi ha sbagliato probabilmente. strada, o forse l'ha preso quella giusta, non lo so, però comunque. Allora, sabato sera abbiamo detto suonerete qui a Bologna al Mercato Sonato ed è la seconda Esatto. data del tour che avete iniziato pochi giorni Sì, fa. anche se in verità la data 1 in verità, perché quella è stata la data 0, questa quindi è la data prima. Quindi possiamo dire che inizia sabato al mercato sonato, Sì, scusa. si può dire, sì. Anche, e tra l'altro avremo anche pronto il nostro video. Abbiamo preparato un video per come primo singolo, abbiamo scelto un primo singolo, una canzone che si chiama Yuri, che parla dei camionisti slavi che passano l'autostrada del sole, vanno in giro per l'Italia, una cosa un po' scorretta, ma allo stesso tempo un po' iannaccesca, così una storia un po' vallanza, un po' iannaccesca. E sì, faremo la prima data proprio lì al Mercato Sonato e avremo come ospite, tra l'altro, il chitarrista dei Pancreas, perché il nostro chitarrista ha fatto un ciocco in macchina e si è spaccato un ginocchio. Però, Ah. quindi per tutto il mese di maggio noi saremo in giro con Andrea Botti, che è il chitarrista di Pancras. E date ne avete fino a fine luglio, peraltro anche una con Scapie e Zebrahead, insomma, una Sì, è vero, roba importante. apriremo il concerto degli Scapè a Milano al Carro Ponte, quindi no, siamo contenti, ma contenti anche del resto del tour, che comunque ci vede al livello cioè, di altre date un po' più protagonisti, mentre negli Scapè saremo, diciamo, una spalla. Mentre, infatti, invito tutti quanti ad andare sulla nostra pagina Facebook, si chiama Vallanzasca con la K, e lì nelle immagini di copertina sono segnati tutti i concerti. Che abbiamo fissato ad ora, ne stanno arrivando ad altri e ho visto che si va in giro abbastanza per l'Italia. Sì. Si va in giro parecchio, perché adesso Si va in ne giro parecchio. Sì, citiamo probabilmente. alcune. Bassano Sì. del Grappa il 19, a Desio il 24, poi si passa a giugno, che sarete a Casorate Sempione il 21, il 27 appunto al Carro Ponte con Scapè Zebred, e vabbè, a luglio ce ne sono parecchie altre, Esatto, e poi avremo anche probabilmente altre agosto e da anche aggiungere. settembre. Esatto. Sì, assolutamente, sia per agosto che per settembre. Ok, quindi abbiamo promosso un po' anche il tour dei Vallanzasca. Bravo! Faccio una domanda che sicuramente avevano fatto miliardi di persone, presumibilmente. Dica. Vallanzasca con la C era non è che fosse proprio uno stinco di santo, però Assolutamente un no, diciamo un. criminale. Sì, E sì. come mai avete scelto di collegare il suo nome a quello della vostra band? Ma allora, perché siamo una band di Milano, volevamo trovare un nome provocatorio, perché abbiamo deciso questo nome che avevamo 19 anni, 20 anni, che ci ha portato tanta fortuna, ma anche chiusura, anche parecchie chiusure, naturalmente perché il personaggio è scomodo. E poi noi l'abbiamo anche conosciuto, abbiamo collaborato con lui con una canzone sull'Expo, si chiama Expo 2015, e nel periodo in cui è uscito ci siamo frequentati, in quanto noi abbiamo fatto una band che si ispira, diciamo, al suo nome. E appunto nello scaccia spesso l'idea del gangster, eccetera. Noi siamo di Milano e c'era questo personaggio, Renato Vallanzasca, che aveva una tipicamente milanese e, diciamo, un modus operandi un po' particolare rispetto a situazioni più organizzate. Era una sorta di bandito, ultimo bandito romantico, per quanto assassino, visto che ha quattro ergastoli e 200, e sta pagando perché deve pagare perché c'ha quattro ergastoli. È dentro, credo, da 50 anni, tra l'altro, adesso è di nuovo dentro, e noi facciamo ska, per cui lui si chiama Vallanzasca e la cosa è fatta. Se lui si fosse chiamato Renato Rossi, noi non ci saremmo chiamati i Rossi, ci chiamiamo Vallanzasca perché la desinenza ha fatto il gioco più che tutto. Aiutato. Ha aiutato. Ok, ti faccio un'ultima domanda, molto, Sì? molto più veloce. Sì. Che canzone mettiamo per chiudere questa intervista? Pensavo di mettere il singolo Yuri, il nuovo singolo di Vallanzasca, una canzone tutta da ascoltare, da capire, da ballare. Perfetto, ci vediamo sabato sera al Mercato Sonato, allora. Vi aspetto tutti quanti, vi Grazie aspettiamo tutti mille, quanti. Grazie, grazie grazie mille, buona a voi. serata.